fatta una veste scullata, un cappiello coi nastri e che rosa, stiva mieta a tre o quattro sciantosa e parlava francese così. Filatriere che t'ha incontrato, filatriere tu l'hai t'ha voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non ci amavo più, mai voto tu, distrattamente a parli me. Regine, quando stiva conmigo non mangiava capane cerase, ne campava mi vase e che vase, tu cantavi e chiagnivi per me, io gardilla cantavo con te. Reginella, va bene a sturre, t'ha voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, ma hai voluto tu, distrattamente pensa a me. Ai gardini, a chi aspetti stasera, non ho via già aperta a caiuolo, reginella è volata e tu vola, vola e canta, non chiagna da ca. Ti ha trovato una padrona sincera, che è più degna e sentirti cantare, t'ha voluto bene a te, tu m'hai voluto bene a me, ma non c'è mamma più, mai voto tu, distrattamente chiama.